Ad alta voce, Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. La scelta del pane. La sera, quando era già buio, andavo nel settore della Jami Al-Fana, in cui le donne vendevano il pane. Accucciate per terra, formavano una lunga fila e il volto era tutto velato, tanto che si vedevano solo gli occhi. Ogni donna aveva davanti a sé un cesto coperto da un panno, su cui erano appoggiati ed esposti per la vendita dei pani piatti e rotondi. Passavo adagissimo lungo la fila, osservando le donne coi pani. Si trattava per lo più di donne mature e le loro forme ricordavano un poco quelle dei pani. Il profumo del pane mi saliva alle narici e nello stesso tempo accoglievo gli sguardi di quegli occhi scuri. Non c'era donna che mi ignorasse. Per ognuna di loro io ero uno straniero che veniva per comprare del pane, ma io non lo compravo, me ne guardavo bene, perché volevo percorrere la fila fino in fondo e mi serviva un pretesto. Qualche volta tra loro sedeva una donna giovane. Si aveva l'impressione che quei pani fossero troppo rotondi. Non sembrava proprio che a farli fosse stata lei. E i suoi sguardi erano diversi. Nessuna di quelle donne, giovane o vecchia che fosse, stava inoperosa a lungo. Perché di tanto in tanto ciascuna sollevava con la destra una pagnotta, la gettava un po' in alto, la riprendeva al volo, la faceva oscillare un momento nella mano come per soppesarla, la tastava rumorosamente un paio di volte e poi, dopo averla così coccolata, la rimetteva tra gli altri pani. Così la pagnotta stessa, la sua freschezza, il suo peso e il suo profumo si offrivano in vendita. C'era in quei pani una sorta di seducente nudità che gli era stata trasmessa dalle mani attive di quelle donne di cui nulla rimaneva scoperto all'infuori degli occhi. Di me posso darti questo. Prendilo nella tua mano. È stato nella mia. Passavano lungo la fila uomini dagli sguardi audaci. E quando uno trovava qualcosa di suo gusto, subito si fermava e riceveva una pagnotta nella mano destra. L'uomo la gettava un po' in alto, la riprendeva al volo, la faceva oscillare un momento nella mano come nel piatto di una bilancia. La tastava rumorosamente un paio di volte e se la trovava troppo leggera oppure non la voleva per altri motivi, la rimetteva in mezzo alle altre. Qualche volta però la teneva e allora si sentiva l'orgoglio della pagnotta e il profumo speciale che diffondeva. L'uomo allungava la sinistra sotto il mantello e tirava fuori una piccolissima moneta, quasi invisibile accanto a quel grosso pane, e la gettava alla donna. Quindi la pagnotta spariva sotto il mantello. Non si sapeva più dove fosse finita. E l'uomo se ne andava. La calunnia. Di preferenza, i piccoli mendicanti si appostavano vicino al ristorante Kudubia. Era lì che tutti noi consumavamo i nostri pasti a mezzogiorno e alla sera. Ed essi sapevano che venendo in quel posto non potevamo sfuggirgli. Per il ristorante, che teneva il suo buon nome, quei bambini non erano un gradito ornamento. Ogni volta che si avvicinavano troppo alla porta, il proprietario li cacciava via. Per loro era più vantaggioso mettersi sull'angolo dall'altra parte della strada e venirci subito intorno appena ci avvistavano, dato che di solito venivamo a mangiare in piccoli gruppi di 3 o 4 persone. Parecchi di noi, che soggiornavano nella città ormai da mesi, si erano stancati di dare l'elemosina e cercavano di scrollarsi di dosso quei bambini. Altri esitavano prima di dare loro qualcosa, perché si vergognavano di questa debolezza davanti ai conoscenti. Bisognava una buona volta imparare a vivere in questo posto. E i francesi residenti ci davano il buon esempio, oppure il cattivo, dipende dal punto di vista. Per principio, non mettevano mano al portafoglio davanti a un mendicante e addirittura si vantavano di avere la pelle dura. Io ero ancora fresco e, per così dire, nuovo della città. Non mi importava affatto quello che gli altri pensavano di me, che mi prendessero pure per un imbecille. Io quei bambini li amavo. Quando ogni tanto loro non mi vedevano, io ci restavo male e, senza farmene accorgere, mi mettevo a cercarli. Mi piacevano i loro gesti vivaci, le piccole dita con le quali facevano segno dentro la bocca, dicendo con voce piagnucolosa ed espressione lamentevole «Mangez, mangez!». Mi piacevano i volti indicibilmente tristi, che essi storcevano come se fossero veramente sul punto di crollare, per la debolezza e per la fame. Mi piaceva la loro indiavolata allegria appena avevano ricevuto qualcosa e il riso eccitato con cui correvano lontano, stringendo in pugno il misero bottino. Mi piaceva l'incredibile mutamento nei loro volti, che prima sembravano moribondi e poi, tutto a un tratto, diventavano felici e beati. Mi piacevano le loro piccole astuzie, per cui mi esibivano dei lattanti, che allungavano verso di me le loro manine minuscole e indifferenti, chiedendo l'elemosina, anche per lui, mangez, mangez, in modo da indurmi a raddoppiare l'offerta. Non erano pochi quei bambini, ed io mi sforzavo di essere giusto, pur avendo naturalmente i miei preferiti, ossia quei bambini con un volto bellissimo e vivace che mai mi saziavo di guardare. I piccoli mendicanti mi seguivano fino alla porta del ristorante. Si sentivano al sicuro sotto la mia protezione. Sapevano che ero ben disposto verso di loro e ciò li spingeva ad arrivare nelle vicinanze di quel posto di fiaba che a loro era proibito e nel quale si mangiava così tanto. Il proprietario, un francese con la testa pelata e rotonda e gli occhi come carta moschicida che guardavano con calore e cordialità solo i clienti abituali, non poteva sopportare che i piccoli mendicanti si avvicinassero al suo locale. I loro stracci non facevano una bella impressione. I clienti ben vestiti dovevano ordinare il loro pasto costoso in un'atmosfera confortevole, senza che gli si rammentasse in continuazione la fame e i pidocchi. Quando io, entrando, aprivo la porta e a lui capitava, trovandosi per caso lì accanto, di gettare un'occhiata fuori, alla vista di tutti quei bambini scuoteva la testa in segno di scontento. Ma io facevo parte di un gruppo di 15 inglesi che ogni giorno, immancabilmente, prendevano 2 pasti nel suo ristorante. E dunque lui non osava dirmi nulla e aspettava un'occasione più propizia per trattare la faccenda con ironia e buon umore. Un mezzogiorno, poiché c'era un'afa soffocante, la porta del ristorante rimase aperta per far entrare un po' d'aria fresca. Avevo superato, insieme a 2 miei amici, l'assalto dei bambini e insieme prendemmo posto ad un tavolo libero, accanto alla porta aperta. I bambini si fermarono fuori, piuttosto vicini alla porta, in modo da poterci tenere d'occhio. Volevano mantenere un rapporto amichevole con noi e magari osservare tutte le buone cose che avremmo mangiato. Ci facevano dei gesti e trovavano divertentissimi soprattutto i nostri baffi. Una ragazzina di circa 10 anni, la più graziosa di tutti, che da tempo si era accorta di essermi simpatica, indicò varie volte la minuscola superficie tra il suo labbro superiore e il naso. E lì afferrò tra 2 dita un baffo immaginario, torcendolo e tirandolo con forza. Quindi scoppiò in un'allegra risata e gli altri bambini risero con lei. Il padrone del ristorante venne al nostro tavolo per ricevere l'ordinazione e vide i bambini che ridevano. Con espressione raggiante mi disse «Questa già si comporta come una sgualdrinella». Rimasi ferito da una simile insinuazione. Forse non volli credergli, anche perché i miei piccoli mendicanti mi piacevano sul serio. E così domandai con aria innocente «Ma cosa dice? Certo non a questa età». «Ma lei non sa», rispose lui, «che per 50 franchi può avere una qualsiasi di quelle bambine. Per una cifra simile, tutte indistintamente verrebbero subito con lei dietro l'angolo». Io ero molto indignato e replicai con energia, «Non ci credo, è impossibile!» «Lei non sa come vanno le cose da queste parti», disse lui. dovrebbe dare un'occhiata alla vita notturna di Marrakesh. Io qui ci vivo da molto tempo ormai. Venni la prima volta durante la guerra. Ero ancora uno scapolo allora. E gettò uno sguardo fuggevole, ma solenne, in direzione di sua moglie. Una donna attempata che, come sempre, era seduta alla cassa. Ero qui con un paio di amici e ci siamo guardati a turno per bene. Quando una volta ci portarono in una casa, subito, non appena ci fecero accomodare, fummo attorniati da un nugolo di ragazzine nude. Si accovacciarono ai nostri piedi, stringendosi a noi da tutte le parti. E non erano più grandi di quelle lì fuori. Qualcuna era ancora più piccola. Scossi la testa incredulo. Non c'era niente che non fosse possibile avere. E noi non ci siamo fatti mancare niente, e spesso ce la siamo spassata. Una volta abbiamo fatto uno scherzo formidabile, devo proprio raccontarvelo. Eravamo in tre amici. Uno andò nella camera di una fatma, così i francesi chiamavano con disprezzo le donne indigene. Ma quella non era una bambina, e noi altri due da fuori guardavamo attraverso il buco della serratura. Dapprima il nostro amico mercanteggiò a lungo con la donna. Poi si misero d'accordo sul prezzo e lui le consegnò il denaro. Lei lo infilò in un piccolo comodino che stava accanto al letto. Poi spense la luce e si sdraiarono insieme. Da fuori noi avevamo visto tutto. Appena fu buio, uno di noi due entrò furtivamente nella camera e in gran silenzio strisciò fino al piccolo comodino. Infilò con cautela la mano nel cassetto e mentre quei due facevano i loro affari si riprese il denaro. Poi se la svignò in gran fretta e insieme corremmo lontano. Poco dopo il nostro amico ci raggiunse. In questo modo era stato gratis con una fatma. Può immaginarsi le nostre risate e questo è solo uno degli scherzi che abbiamo fatto. Non stentavamo a crederlo, perché stava ridendo a gola spiegata. Si scuoteva dal gran ridere e rimase con la bocca spalancata. Non sapevamo proprio che avesse una bocca così grande. Non lo avevamo mai visto in quello stato. Di solito andava e veniva nel suo ristorante con una certa dignità, raccogliendo le ordinazioni dei suoi clienti preferiti, con la massima educazione e riservatezza, come se gli fosse del tutto indifferente il cibo che veniva ordinato. I suoi consigli non erano mai invadenti e dal tono sembrava che fossero dati solo per far piacere al cliente. Ma oggi quell'uomo aveva abbandonato ogni riservo. Raccontare quell'episodio lo mandava in visibilio. Quell'epoca doveva essere stata per lui veramente magnifica. Fece una sola cosa che ricordava il suo consueto modo di comportarsi. Nel mezzo del suo racconto si avvicinò al nostro tavolo un giovane cameriere. Egli lo spedì via sgarbatamente con una ordinazione, in maniera che quello non sentisse ciò che lui ci stava raccontando. Noi, da buoni anglosassoni, restammo di ghiaccio. Sia i miei due amici, uno veniva dal New England e l'altro era inglese, sia io, che da 15 anni vivevo in mezzo a loro, provammo un sentimento di ripugnanza e di disprezzo. Anche noi eravamo in tre, e le cose ci andavano bene, fin troppo bene, e forse ci sentimmo vagamente in colpa per quegli altri tre, i quali, unendo le loro forze, avevano defraudato una povera donna indigena della sua ricompensa. Il padrone del ristorante, raccontando la sua storia, aveva un'aria radiosa e piena di orgoglio. La trovava divertentissima, nient'altro che questo, e il suo entusiasmo resistette al nostro acre sorriso e ai nostri imbarazzati cenni di approvazione. La porta era sempre aperta. I bambini stavano fuori e aspettavano pazientemente. Sentivano che mentre lui raccontava non sarebbero stati cacciati via. Mi venne in mente che non potevano capirlo. Lui, che aveva iniziato a parlare di loro con tanto disprezzo, si era reso disprezzabile in un batter d'occhio. Non importa se li calunniava o se diceva la verità sul loro conto. Qualunque cosa facessero quei piccoli mendicanti, ora egli stava più in basso di loro, assai più in basso, e io mi augurai con tutto il cuore che esistesse una qualche forma di castigo per il quale egli avesse bisogno della loro intercessione. La voglia dell'asino. ero solito rientrare dalle mie passeggiate notturne per le vie della città, attraversando la Jami Alfanà. Faceva uno strano effetto camminare per la piazza che era ora quasi vuota. Non c'erano più gli acrobati e neanche i ballerini, nessun incantatore di serpenti e non un mangiatore di fuoco. Un omino solo soletto era accucciato per terra, con davanti una cesta di uova piccolissime. Intorno a lui non c'era nulla. Qua e là ardevano delle lampade ad acetilene. La piazza era invasa dal loro odore. Nei chioschi dei bettolieri si vedeva ogni tanto un uomo seduto che immergeva il cucchiaio in un piatto di minestra. Sembravano persone sole, gente che non sapeva dove andare. Ai bordi della piazza parecchi uomini si erano coricati per dormire. Certi erano stesi per terra, ma i più stavano accovacciati. Tutti avevano tirato sopra la testa il cappuccio del loro mantello. Dormivano immobili. Nessuno avrebbe mai sospettato che qualcosa respirasse sotto quei neri mantelli incappucciati. Una notte vidi in mezzo alla piazza un circolo di persone, grande e fitto, illuminato in modo stranissimo dalle lampade ad acetilene. Tutti erano in piedi, le ombre scure sui loro volti e sui loro corpi, vicinissime alla luce tagliente che su di essi proiettavano le lampade, conferivano a quegli uomini una sorta di sinistra ferocia. Sentivo il suono di due strumenti indigeni e insieme la voce di un uomo che parlava con veemenza a qualcuno. Quando mi avvicinai e riuscii a trovare uno spiraglio per guardare dentro il cerchio, vidi che nel mezzo un uomo, in piedi, con in mano un bastone, poneva incalzanti domande ad un asino. Di tutti i miserabili asini della città, quell'asino era il più miserabile. Gli sporgevano le ossa, era ridotto alla fame, il suo pelo era logoro e certo non era più in grado di portare il benché minimo peso. C'era da chiedersi come potesse ancora tenersi dritto sulle gambe. L'uomo intratteneva un buffissimo dialogo con lui. Tentava di convincerlo di qualche cosa. Quando l'asino si ostinava, gli poneva delle domande. E siccome la bestia non voleva rispondere, gli uomini ridevano forte sotto la luce. Forse rappresentavano una storia, nella quale un asino recitava una parte. Infatti, dopo una lunga chiacchierata, quel triste animale cominciò a ruotare lentissimamente a suon di musica. Il bastone rimaneva sempre brandito sopra di lui. L'uomo parlava, sempre più veloce, e alzando la voce, urlava addirittura per tenere l'asino in movimento. Ma dal tono delle sue parole, a me sembrava che lui stesso incarnasse una figura comica. La musica continuava incessante, gli uomini non la finivano più di ridere e guardavano dentro il cerchio come cannibali o mangiatori di asini. Rimasi per poco tempo e così non so dire quel che accadde dopo. Il ribrezzo prevalse sulla curiosità. Da tempo avevo serrato nel mio cuore gli asini di questa città. Ad ogni passo avevo occasione di indignarmi per come venivano trattati, ma non potevo far nulla, ero del tutto impotente. Mai, tuttavia, una creatura si era presentata ai miei occhi sotto un aspetto così pietoso. E andando verso casa, cercai di tranquillizzarmi dicendo a me stesso che quell'asino sicuramente non avrebbe passato la notte. Il giorno seguente era un sabato. E mi recai di buon'ora alla Jami. Era uno dei suoi giorni più animati. Spettatori, attori, ceste e bancarelle si addensavano nella piazza. Ed era difficile aprirsi un varco tra la folla. Raggiunsi il posto dove la notte prima si trovava l'asino. Guardai e non credetti ai miei occhi. L'asino era di nuovo là, completamente solo. L'osservai con attenzione, non c'era da sbagliarsi, era proprio lo stesso asino. Lì vicino il suo padrone chiacchierava pacifico con alcune persone. Intorno a loro ancora non si era radunato nessuno. Non c'erano i musicisti, la rappresentazione non era ancora iniziata. L'asino stava lì, proprio come la notte prima. Sotto la luce sfolgorante del sole appariva ancora più spelacchiato che durante la notte. Mi sembrò più miserabile più affamato e più vecchio. Di colpo avvertii la presenza di un uomo alle mie spalle e percepii il suono di parole concitate che però non capivo. Mi girai e dunque per un attimo perdetti di vista l'asino. L'uomo che avevo sentito si stava facendo largo tra la folla, venendomi addosso. Ma fu subito chiaro che non stava minacciando me, bensì qualcun altro. Mi voltai nuovamente verso l'asino. Non aveva cambiato posizione, ma non era più lo stesso asino, perché tra le gambe posteriori, ad un tratto, gli pendeva inclinato in avanti un membro gigantesco. Era più grosso del bastone con il quale lo avevano minacciato la notte precedente. Durante quell'attimo in cui mi ero girato, era avvenuto in lui un mutamento sconvolgente. Non so che cosa avesse visto, sentito o annusato. Non so cosa gli fosse passato per la mente. Ma quella miserabile, vecchia, debole creatura che stava per crollare, che serviva unicamente per dialoghi testardi, che era trattata peggio di qualsiasi altro asino di Marrakesh, quell'essere che valeva meno di niente, senza carne, senza forza, senza un vero e proprio pelo, aveva ancora in sé una voglia tale che al solo vederlo mi sentii liberato dall'impressione della sua miseria. Penso spesso a quell'asino. Mi domando quanto di lui fosse ancora rimasto quando lo perdetti di vista. A ogni essere tormentato, auguro nella miseria la sua stessa voglia. L'invisibile. All'ora del crepuscolo mi recavo nella grande piazza centrale della città e non vi cercavo i suoi mille colori e la sua vivacità a me ben familiari. Cercavo un piccolo fagotto, scuro, per terra, che non era fatto neppure di una voce, ma di un unico suono. Era un profondo, lungo, ronzante... Non diminuiva e non aumentava, però non cessava mai, ed era sempre percettibile, dietro ai richiami e alle grida, innumerevoli, di quella piazza. Era il più immutabile suono della Jami Alfanà, un suono che rimaneva sempre uguale nel corso di tutta una sera e da una sera all'altra. Già da lontano stavo in ascolto. Mi spingeva un'inquietudine di cui non so dare alcuna spiegazione appropriata. Sarei andato in ogni caso sulla piazza, ero attratto da moltissime cose, e mai dubitai che lo avrei ritrovato, insieme a tutto ciò che ad esso si collegava. Solo nei confronti di questa voce, che era stata ridotta a un unico suono, io provavo qualcosa di simile all'angoscia. Era una voce al limite del vivente. La vita che la produceva era fatta soltanto di questo suono. Io stavo in ascolto con avidità e con timore, e lungo il tragitto raggiungevo un punto, sempre lo stesso, dove ad un tratto lo sentivo, simile al ronzio di un insetto. Sentivo diffondersi nel mio corpo una sorta di incomprensibile calma, e mentre fin qui il mio passo era stato un po' incerto ed esitante, ora mi dirigevo con improvvisa risolutezza verso quel suono. Sapevo dove nasceva, conoscevo il piccolo fagotto marrone che stava per terra, di cui non avevo mai visto niente se non quel pezzo di stoffa, ruvido e scuro. Non avevo mai visto la bocca da cui traeva origine, mai gli occhi, mai le guance, mai una parte del volto. Non avrei saputo dire se quel volto fosse quello di un cieco o di uno che vedeva. Il sudicio panno marrone era tirato sulla testa come un cappuccio e nascondeva tutto. La creatura, tale doveva essere, stava accovacciata per terra e chinava la schiena sotto la stoffa. Della creatura aveva poco, sembrava un essere leggero, debole, non si riusciva a intuire nient'altro. Non l'avevo mai visto in piedi, e perciò non sapevo quanto era grande. Quel poco che stava per terra era talmente basso che se il suono fosse cessato facilmente, la gente lo avrebbe urtato senza volere. Non lo vidi mai venire, non lo vidi mai andarsene. Non so se lo portassero e lo mettessero lì, oppure se arrivasse con le sue gambe. Il posto che si era scelto non era per nulla riparato. Era la parte più esposta della piazza. Un viavai di persone attorniava incessantemente il mucchietto marrone. Nelle sere di grande animazione spariva sotto le gambe della gente, e così io, che pur sapevo benissimo dov'era e ininterrottamente udivo la sua voce, facevo fatica a trovarlo. Ma poi la gente si disperdeva e lui restava al suo posto, quando tutto intorno, a perdita d'occhio, la piazza era vuota. Poi giaceva nelle tenebre, come un abito smesso, vecchio e sporchissimo, che qualcuno aveva furtivamente lasciato cadere per terra in mezzo alla folla, in modo da liberarsene senza farsi notare. Ma ora la gente si era dispersa e il fagotto restava lì, completamente solo. Non aspettavo mai che si alzasse o che venisse alzato. Me la svignavo nell'oscurità, con una soffocante sensazione di impotenza e di orgoglio. L'impotenza riguardava me. Sentivo che non avrei mai fatto nulla per scoprire il segreto di quel fagotto. Il suo aspetto mi incuteva timore, e poiché non potevo far niente per dargli un aspetto diverso, lo lasciavo per terra. Quando gli arrivavo vicino, stavo attento a non inciamparvi, come se temessi di ferirlo o di metterlo in pericolo. Ogni sera era là, e ogni sera il mio cuore si fermava non appena snidavo quel suono, e poi tornava a fermarsi quando lo scorgevo. Il suo andare e il suo venire mi era sacro, più ancora del mio. Non lo seguivo mai e non so dove andasse per il resto della notte e del giorno successivo. Era un essere speciale, che forse sapeva di esserlo. Qualche volta fui tentato di sfiorare con un dito molto delicatamente il cappuccio scuro. Se ne sarebbe accorto di certo, e forse possedeva un secondo suono con il quale mi avrebbe risposto. Ma questa tentazione si dissolse ogni volta, immediatamente, nella mia impotenza. Ho detto che mentre me la svignavo, mi sentivo soffocare da un'altra sensazione, l'orgoglio. Ero orgoglioso del fagotto, perché era vivo. Non saprò mai i suoi pensieri mentre respirava laggiù, sotto le altre persone. Il senso del suo richiamo mi rimase oscuro, come tutta la sua esistenza. Ma egli era vivo, e ogni giorno, alla sua ora, era là di nuovo. Non lo vidi mai prendere le monete che i passanti gli gettavano. Gli gettavano poco. Non restavano mai sul selciato più di 2 o 3 monete. Forse non aveva le braccia per prendere le monete. Forse non aveva la lingua per formare la L di Allah. Il nome di Dio si accorciava per lui in... Ma era vivo ed emetteva il suo unico suono con uno zelo e una costanza senza pari. Lo emetteva per ore, fino a quando nella piazza immensa non restava che quest'unico suono, il suono che sopravviveva a tutti gli altri suoni.